da fuori confondevano la Madonnina col villaggio, era tutt'uno. Invece la Madonnina era un'altra cosa, perché noi eravamo tagliati fuori dalla ferrovia. E non c'era un passaggio, adesso è aperto, ma c'era, bisognava fare cavata via, che era una cosa noiosa. Per cui il villaggio era qualcosa di diverso, non era...